Perché allora si continua, nonostante sia scritto che non è questo atteggiamento a rendere graditi? Perché l'uomo è soddisfatto del suo comportamento religioso senza neppure domandarsi se Dio lo sia altrettanto. In definitiva, chi segue e accetta per vera la propria religione non mette in discussione il suo comportamento per conoscere se è gradito a Dio, un errore questo che gli costa la dannazione eterna. Parlavo di recente con un giovane dell'Evangelo e lui si definiva un cattolico romano, pur dichiarando apertamente di non credere in Dio, in nulla di ciò che dichiara la parola di Dio e la sua religione. Gli feci presente la sua contraddizione perché anche il cattolicesimo romano pretende che i suoi seguaci credano in Dio, alla parola di Cristo e accettino i dogmi della religione. Ma egli mi rispose che l'importante per lui era di non mettersi in discussione e proprio per questo preferiva stare dalla parte del cattolicesimo romano perché non imponeva un autoesame alla luce della Santa Scrittura. Il religioso formalista ha proprio un simile atteggiamento sommamente spregevole per Dio e per questo non può piacere al Dio della parola. A costoro Dio rivolge le parole che il profeta Geremia ha pronunciato circa 600 anni prima di Cristo e che rendo attuali. Che mi importa delle vostre messe? Le vostre offerte non mi sono gradite e i vostri sacrifici non mi piacciono. Gr 6:20. Non è possibile ascoltare queste parole e rimanere insensibili, e il primo sforzo da compiere è considerare che Dio ha sempre ripreso un popolo religioso nominale quanto meno se non di più o meno quello cattolico romano italiano. Se queste parole non sono rivolte a noi, allora possiamo buttare alle ortiche la parola di Dio. Non solo il religioso formalista non può piacere a Dio, ma pure colui che ha posto fede in Cristo. Anche questo aspetto va preso sul serio. Così si esprime l'autore della lettera agli Ebrei. Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Eb 11:6. È evidente che questa verità è applicata all'incredulo e al religioso ipocrita perché non credono in Cristo quale manifestazione di Dio, ma è pure attribuita al credente che si accosta a Dio, cioè si rivolge a Lui in preghiera senza nutrire nel suo cuore un profondo desiderio di una ricompensa. È molto determinante mantenere nel proprio cuore un avvincente obiettivo di avere una retribuzione del proprio operato perché non essendoci nella vita, un traguardo ricompensato si è demotivati. Forse è proprio questo uno dei principali peccati di molti credenti, non si aspettano e non cercano una ricompensa. Essi fanno parte della schiera di coloro che non possono piacere a Dio. E di loro Dio prova disgusto come per gli ebrei che hanno camminato per 40 nel deserto lamentandosi. Eppure Gesù ha sempre ordinato di guardare alla ricompensa come nel caso dei tesori in cielo. Egli non ha detto di non farci dei tesori, ma di procurarci i veri beni preziosi, cioè quelli che provengono da Dio. Gli stessi apostoli di Cristo più volte nelle lettere invitano e ordinano di avere lo sguardo verso le cose celesti e di condursi in modo di essere graditi a Dio. Un esempio lo troviamo nella lettera ai Colossesi, dove Paolo si preoccupa dei credenti perché possano essere graditi a Dio. Perciò anche noi non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della Sua volontà, in ogni sapienza ed intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. CL 1:9-10. Che bello avere l'obiettivo di crescere nella conoscenza di Dio con lo scopo di fare ciò che gli è gradito. Non è forse questo un vero atto di amore? Desiderare di piacere a Dio. Non è forse come sta scritto nel libro di Isaia, l'aspirazione dell'uomo nobile che escogita cose nobili e si prefigge cose nobili? Is 32:8. Con questa prospettiva la santità, cioè quel cammino che si adegua alla volontà di Dio, non è solo un'obbedienza religiosa formale per ottenere qualcosa o per soddisfare un bisogno psicologico morale, ma è la gioiosa volontà di voler piacere a Dio ed essergli gradito. La gioia di fare ciò che è gradito a Dio? Che questo obiettivo possa conquistare la nostra vita per essere simili a Gesù che faceva sempre ciò che piaceva al Padre? Giv 8.29, vedendo conseguentemente esaudite le proprie richieste. Fare ciò che è gradito a chi si ama. Questo principio sta alla base di ogni relazione, come quella più profonda e importante, il matrimonio. In merito, l'Apostolo Paolo scrive quanto segue a dei credenti che si chiedevano come dovevano vivere la vita matrimoniale. Ora io desidero che voi siate senza sollecitudine. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore come possa piacere al Signore. Ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Vi è differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito, ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al marito. Ora dico questo per il vostro vantaggio, non per tendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso e perché possiate darvi a ciò che è degno e conduce al Signore senza distrazione. 1 Cor 7.32-35. Quando si cerca di piacere a qualcuno, per forza di cose non si può piacere ad altri, e chi cerca di piacere al Signore non può piacere a coloro che non lo amano. Come un coniuge che cerca di piacere al proprio partner non può cercare di piacere ad un altro. Così, la prova se si è veramente sposati meno, cioè che si desidera vivere con chi si è unito in matrimonio, meno la prova che si ama il proprio partner non consiste soltanto nelle parole o nei fatti, ma se si ha nel profondo del cuore il desiderio di essergli gradito e di fargli ciò che gli piace. Questo essergli gradito può consistere in un'azione, come dire, parole di incoraggiamento, come in una omissione, cioè non ribattere. Se è vero, come ha detto Gesù, che non si può servire a due padroni, perché o si ama uno o si odia l'altro, così è vero che o si piace a Dio e si odia il mondo, o si ama il mondo e non si può essere graditi a Dio. L'Apostolo Paolo, avendo compreso questo principio, dovette scrivere ai Galati: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure, cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. GL 1.10. Il desiderio di piacere a Dio era talmente profondo che Paolo ne parlava in termini estremi, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla. Con ogni franchezza ora come sempre Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. IFL 1.20. Questo è cercare di piacere a Dio, non solo quando le cose vanno bene, ma anche nella sofferenza e nella prospettiva della morte. Solo così si può essere esauditi nella preghiera. Considerato il valore di essere graditi a Dio, prendiamo in esame l'affermazione dell'Apostolo Giovanni riguardo all'esaudimento della preghiera. Punto. Qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. IGV 3.22. Una lettura frettolosa porterebbe a pensare che Giovanni dica che qualunque cosa si chieda a Dio la si riceve. Ma Giovanni sta dicendo che tutto quello che chiediamo e otteniamo dobbiamo attribuirlo a Dio. E questo per due motivi: perché si osservano i Suoi comandamenti e perché si fa quello che è gradito ai Suoi occhi. È molto significativo il fatto che Giovanni non si limiti a dire che si è esauditi perché osserviamo i comandamenti di Dio, ma che siamo esauditi anche per il fatto che facciamo quello che Gli è gradito, come se fare le cose gradite fosse un elemento non rientrante nei comandamenti di Dio. Vi sono dunque delle cose gradite a Dio, ma non rientranti nei Suoi comandamenti? Non è sufficiente osservare i comandamenti di Dio per essere a Lui graditi? Evidentemente no, perché il credente è esaudito dal momento che osserva i comandamenti di Dio e fa quello che Gli è gradito. Cosa sono dunque queste cose gradite a Dio e che non rientrano nei Suoi comandamenti? Una cosa certa è la riconoscenza. I comandamenti di Dio sono ordini nei confronti di Dio e degli uomini, ma non vi è accenno alla riconoscenza, anche perché questa non può essere il risultato di un ordine. La riconoscenza ci è o non ci è un qualsiasi ordine non la può produrre. Vediamo un esempio di questo nell'episodio dei 10 lebbrosi guariti da Gesù. Quando si videro guariti mentre andarono dal sacerdote per essere riconosciuti sani, uno di questi sentì istintivamente il bisogno di ritornare indietro e, gettandosi con la faccia a terra ai piedi di Gesù, lo ringraziò. Dillaci 17:16. Non era obbligato il lebbroso a tornare indietro, tant'è vero che gli altri 9 non commisero nessun peccato nell'andare dal sacerdote, perché avevano obbedito a Gesù, ma il 10, con la sua riconoscenza, fece una cosa gradita a Dio, cosa per la quale non era obbligato. Così, un altro aspetto fondamentale della preghiera è che per essere esauditi occorre avere del continuo un cuore riconoscente nei confronti di Dio, sia in quello che ci sembra bene, sia in quello che ci sembra male. Molto probabilmente, questa è la prova più difficile da superare per persone egoiste e profondamente insoddisfatte quali siamo, ma se vogliamo essere vittoriosi su tutto, dobbiamo con un atto di volontà voler essere riconoscenti. Atteggiamento che troviamo. S.P.O., Nuovo Testamento Aneo nella sua totalità in cielo. Dicembre 2007. Ellero.